quelli che hanno avuto l'idea sono quelli che frequentano la palestra dell'XM24, in particolare un gruppo yoga e un gruppo di meditazione che sono lì ospitati. Ovviamente, quando abbiamo saputo la notizia della lettera dello sgombero, ci è venuto spontaneo partecipare, ovviamente in sostegno dell'XM, però nelle forme che ci sono più proprie, che sono quelle appunto pacifiche della meditazione e del lavoro sul piano sottile. Quindi la nostra idea era proprio quella di interagire proprio energeticamente, cercando di dare un messaggio positivo senza però entrare nelle dialettiche dell'opposizione, della contrapposizione, ma cercare comunque, come si può dire, pacificamente di accogliere anche la lettera dello sgombero, cercando ovviamente di interagirci energeticamente, ecco questo. Ieri si è svolto appunto questo incontro di meditazione. Sì, non solo ieri, diciamo, noi da quando c'è stata la lettera dello sgombero abbiamo comunicato in assemblea all'XM che avremmo fatto tutti i lunedì, poi non sono stati tutti, ma quasi tutti sì, avremmo fatto una meditazione di 30 minuti, Piazza Liber Paradisus, alle 18 di sera, cioè diciamo c'è stata anche abbastanza partecipazione, poi ovviamente le persone alla lunga un po' hanno tirato il fiato, però alla fine ci siamo arrivati, ecco, a fare questa meditazione per tutti questi mesi in sostanza. Che è rimasto ovviamente anche silenziosa perché l'intento era quello di mantenere anche un discorso di silenzio interiore e anche di silenzio da questo punto di vista rispetto alla mediaticità e via dicendo. Su Facebook avete spiegato anche le ragioni, voi dite la notizia dello sgombero può diventare un momento di rimessa in discussione per aprire il cuore e crescere spiritualmente. Certo, nel senso proprio di saper accogliere, di saper vedere l'altro non come nemico, ma come colui che comunque ci porta a trasformarci. In questo senso è ovvio, è l'altro che in qualche modo non capiamo, però cerchiamo comunque di utilizzarlo per trasformarci noi. Questo era lo scopo. Quindi la trasformazione spirituale in questo senso, come crescita. Infatti invitate anche a persone non solo a Bologna, ma un po' in qualunque parte del mondo a partecipare. Comunque sì, nell'ottica che la meditazione, diciamo, va oltre il concetto di spazio-tempo come normalmente lo utilizziamo, perché comunque la connessione è possibile in ogni momento, in ogni luogo, e quindi si può meditare anche, tant'è vero che è anche successo delle persone che si sono messe in connessione con noi quando facevamo la meditazione da altre parti, magari perché non potevano venire o perché impossibilitate comunque, ecco. Quello di ieri è stato l'ultimo incontro, ma nel senso che non ce ne saranno più? Questo non te lo so dire perché comunque ne stiamo discutendo, nel senso che a noi l'esperienza è piaciuta, c'è un ragazzo che ha lanciato anche l'idea di continuare, quindi può anche darsi che, cioè potrebbe essere l'occasione per continuare, questo ne stiamo discutendo, però è possibile che ci saranno sicuramente, anzi quasi sicuramente ci saranno altre meditazioni che faremo, non con la cadenza però tu settimanale che è stata quella che abbiamo fatto fino adesso, ma magari degli appuntamenti mensili, non lo so, da decidere ancora. Sappiamo che XM24 è attraversato da realtà anche molto diverse fra loro. Come è nata la collaborazione? È vero che nell'XM ci sono realtà molto differenti, però è anche vero che c'è uno spirito di apertura molto elevato e di collaborazione tra tutti i gruppi, e una realtà che non ho trovato molto facilmente a Bologna. E quindi da questo punto di vista è venuto naturale anche pensare di fare un corso di yoga, ad esempio all'XM, io faccio un corso di yoga all'XM, ma quello che è interessante anche se, uscendo un po' dalle logiche del mercato, dando più invece risalto all'aspetto della collaborazione, dello scambio, dei saperi e non solo, ecco. Era naturale andare lì all'XM, diciamo, e condividere questa esperienza all'interno dell'XM, anche perché poi è un centro dove, proprio perché ci sono queste possibilità, è frequentato da tantissime persone che vengono, cioè persone che comunque ricercano questo tipo di approccio che altrimenti sarebbe difficile anche da individuare, magari anche difficile incontrarsi, ecco.